E sulle travolgenti note di questo Boogie Woogie diamo il benvenuto al bassista, anzi contrabbassista e cantante della band Black Ball Boogie, ovvero a Luciano Sibona. Ciao Luciano. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Buonasera a tutti, buonasera a Lerica. Grazie, grazie. Grande. Buonasera. Senti, come stai? Noi qui ci stavamo scatenando, stavamo ballando fuori onda come delle pazze. Beh, sono contento, il nostro obiettivo è quello, farvi ballare. E infatti i Black Ball Boogie che tu rappresenti quest'oggi ai microfoni di Radio Città Fucico sono un trio rock and roll boogie bolognese all'attivo circa dal 2016 in zona bolognese e non. E quindi partiamo subito, io ti direi proprio di presentare questa formazione e raccontarci un po' la vostra storia, com'è che siete nati. Sarò breve, insomma. Allora, è nato tutto da il pianista, cantante, perché in realtà siamo in tre che cantiamo. Ah. Siamo tre voci, sì. Io faccio sempre questo parallelo un po', diciamo, estremo, però noi io descrivo sempre il gruppo come i Beatles del rock and roll, in un certo senso. Ah, però! Beh, senza fare paragoni eccessivi, chiaro. È solo per un discorso vocale, ecco. Non metterei mai assolutamente a paragone col Beatles. Allora, è nato tutto da Manuel Goretti, il pianoforte, il pianista, che mi venne a sentire. Lui suona il piano da un sacco di anni, si diploma tra poco al conservatorio, quindi facciamo gli auguri. Tanti auguri. Sì. E, a lui è sempre piaciuto il Boogie Woogie, quindi Jerry Lee Lewis, il rock and roll anni 50. E mi venne a sentire una serata, suonavo dalle parti di casa sua, con un'altra situazione, e cercavo un contrabbassista che sapesse fare queste robe qui, perché ovviamente oltre il discorso tecnico c'è anche un discorso di gusto musicale, eccetera eccetera, di essere nel genere, altrimenti fai un po' fatica, come in tutte le cose, chiaro. È nato tutto da lì. Manuel mi chiamò, mi disse, dopo il concerto, mi disse: Luciano, senti, vorrei fare un trio boogie, mi piacerebbe fare questa cosa. Dopo un anno mi ricontattò perché trovò il batterista Filippo Lambertucci, che studiava con lui, un batterista fantastico, anche lui diplomato dall'anno scorso al conservatorio, e è nato tutto da lì, ecco. Ci siamo trovati, ci siamo messi in sala prove, abbiamo deciso i pezzi da fare, ovviamente abbiamo fatto dei tentativi, perché ovviamente non tutti i pezzi possono essere adatti, e abbiamo trovato una situazione perfetta, perché il trio, pianoforte, contrabbasso e batteria, con tre voci, è molto, come dire, eterogeneo da questo punto di vista. Possiamo fare brani differenti perché tre voci diverse, un sound molto potente ma anche molto educato, visto comunque il discorso anche jazzistico dei due, non mio assolutamente. Quindi abbiamo trovato la sinergia giusta, poi c'è un grande rapporto tra noi e siamo partiti. Abbiamo iniziato a fare piccoli concerti, poi siamo entrati nel giro del Boogie Woogie, delle scuole di ballo, eccetera eccetera, e sogniamo praticamente, insomma, dal nord a sud. Beh, allora, proprio a proposito di questo, io ti farei un'altra domanda che riguarda proprio la vostra collaborazione anche con una parte non performativa, diciamo. Infatti, oltre ai Black Ball Boogie c'è anche la Black Ball Boogie Experience, ovvero la possibilità di integrare il vostro show con anche delle coreografie, una parte ballata, giusto? Come sono i vostri show in questo senso? Allora, noi ci avvaliamo della collaborazione anche di un sax, spesso e volentieri, che è il maestro Marco Borazio, che lo saluto, spero che ci stia sentendo, e poi lavoriamo con questa fantastica scuola di ballo storica di Bologna, che si chiama Fantasy Rock. A Bologna lavoriamo con loro, facciamo tantissime feste con loro, e ci sono coppie di ballerini che ballano, quindi ballano facendo delle coreografie, però poi è semplicemente un modo per animare la serata, per poter avere gente che si tuffi in pista, è la cosa fondamentale, perché poi questa musica fa ballare tutti, a prescindere se sa ballare o meno. Quindi lavoriamo con la Fantasy Rock dall'inizio in pratica, e loro ci aiutano tantissimo da questo punto di vista, perché ci sono tre o quattro coppie di ballerini molto esperte, molto bravi, e suonano e ballano sulle nostre musiche, quindi poi coinvolgendo tutto il resto del pubblico. Questo è fondamentale, perché la gente, sai, quando si balla si è sempre un po' timidi. Eh beh sì, quando c'è sempre un po' di imbarazzo. Ecco sì, quando vedono ballare un po' di coppie scatenandosi, poi si apre tutto, ecco. E questo è il nostro obiettivo, dare un'esperienza moderna, perché comunque ci riteniamo un gruppo di boogie woogie moderno, però dando anche la possibilità a tutti di sentirsi coinvolti. Certo, e questo è molto bello, caro Luciano. E adesso noi facciamo ascoltare un altro pezzo del vostro album, ma poi noi torneremo a parlare, a chiacchierare un altro po', per cui restate con noi. Questo è Boogie Woogie Country Girl. E anche su questa noi stavamo ballando in cabina e rientriamo invece per terminare questa intervista a Luciano Sibona, che ricordiamo contrabbasso è una delle tre voci dei Black Ball Boogie. Bentornato Luciano. Grazie a voi. E volevo, collegandomi a quello che avevi detto prima, chiederti qualcosa riguardo ai vostri live e al fatto che comunque sono fatti proprio per coinvolgere le persone, insomma, no? I non per forza appassionati di musica boogie. Infatti voi vi siete comunque esibiti in tanti festival, anche la Ramengo Blues Festival, Gage Vintage, Vintage. Sì. In questi anni sembra che in effetti la musica boogie stia avendo un po' un boom in un qualche modo. Come la vedi tu questa cosa? Cioè, nel senso, c'è effettivamente un boom, ci sono più appassionati, questo tipo di musica riesce a coinvolgere effettivamente anche chi non era per forza appassionato alla musica di questi anni? E anche un po' come è andata, visto che abbiamo saputo che avete suonato a Dancing Bo poco tempo fa in Piazza Maggiore, com'è stata la risposta, ecco? Allora, sicuramente sono più di 10 anni che, diciamo, si cavalca questo filone un po' del vintage dal punto di vista musicale. Si era partito magari una decina d'anni fa con rockabilly, poi si è spostato sicuramente col boogie. Adesso devo dire la verità, non è certo più come prima, però ci sono più appassionati dal punto di vista del discorso ballo, e quindi comunque è ancora presente e sta crescendo anche nelle nuove generazioni, in un certo senso. Sì, noi abbiamo fatto tanti festival, volevo dire proprio questo. L'anno scorso, due anni fa, abbiamo partecipato al Polish Boogie Festival, uno dei festival più importanti del boogie, insomma, in Europa, e parteciperemo anche quest'anno, quindi sarà un'altra bellissima esperienza. Vi hanno invitati, tra l'altro, giusto, quest'anno? Sì, vi hanno proprio chiamati loro. Sì, ci hanno invitati. Il Dancing Boy è stata un'esperienza molto bella, perché a parte il freddo, vabbè, quello è scontato. però devo dire, è stata veramente una festa fantastica, perché c'è stata una risposta eccezionale da chiunque, perché turisti, gente che era lì per caso, la Fantasy Rock che ci ha aiutato ovviamente in questo caso, anche in questa esperienza, visto insomma del Fimbo, abbiamo lavorato con loro, è stata un'esperienza bellissima, tantissima gente, grande risposta dal pubblico, grande risposta da tutti. Per quanto riguarda le nostre date, vi dico subito che ci sarà un bellissimo evento questo sabato, cioè il 15, lo faremo all'Arci Wisp di Ozzano. Ci sarà il DJ Angelo La Bestia dopo di noi, e questo evento sarà fantastico perché la sala è grande, ci saranno i ballerini, spero tanti ballerini, e vi invitiamo tutti in questo fantastico posto ad ascoltare la vostra musica e soprattutto a ballarla. Assolutamente, tutte e due sarebbe meglio, ecco. No? Certo, anche perché non si può ballare senza ascoltare, dai, quindi. Ma non è detto, eh. Senti Luciano, ma invece avete già qualche progetto futuro, qualcosa bolle in pentola? Sì, allora ecco, aspettavo questa domanda in un certo senso. Allora, stiamo incominciando a lavorare sui nostri pezzi, perché adesso stiamo procedendo a lavorare su pezzi inediti, cioè solo fatti da noi, quindi non più cover ma o riarrangiamenti. Partiamo già con i pezzi che nascono direttamente dalle nostre menti, dalle nostre anime, dalle nostre mani. Quindi penso in estate sicuramente qualche pezzo lo tireremo fuori, prima dell'estate, prima del lavoro estivo, e poi sicuramente quest'inverno lavoreremo anche, spero anche una registrazione, una nuova registrazione di pezzi inediti, perché ci vuole, ecco. Certo, quindi una bella novità, insomma, spostarvi dalla, esatto, dalle cover ai vostri inediti. E ci vuole un po' di tempo, e quindi creare la compattezza, secondo me 2 anni e mezzo sono necessari, e poi si può partire bene nel fare i pezzi propri, ecco. Certo, e noi in questo ti diamo il nostro grandissimo in bocca al lupo, e ti ringraziamo tantissimo Luciano per essere stato qui insieme a noi ai microfoni di Radio Città Fucico come rappresentante della band Black Ball Boogie, e sì, insomma ci diamo un appuntamento in futuro quando poi usciranno i vostri inediti. Assolutamente, vi ringrazio tantissimo, saluti i ragazzi che sono in viaggio in questo momento, un abbraccio ai Black Ball Boogie, ricordatevi sempre che il rock and roll è una cosa seria. Certo, grazie mille Luciano, buona giornata. Grazie mille, ciao. Ciao. Ciao.